Spero tanto che arrivi presto il 25 ottobre, perché ormai tutto ciò che bisognava fare l'abbiamo fatto e siamo pronti a salire sul ring. Un'altra serata di festa per tutta la città. Sì, assolutamente, assolutamente. Un altro titolo europeo che si combatterà qua a Bologna, quindi sarà un altro venerdì di festa a cui spero che molte persone potranno partecipare. La mia avversaria è molto esperta perché ha già avuto modo di combattere 3 titoli mondiali e in più, osservandolo un po', ho visto che ha un bellissimo gancio che spero di parare, che non entri ogni volta che provo a metterle dei colpi. Voglio contare quanti più ganci suoi riesco a parare, perché ho visto che è bellissimo, veloce e non fai neanche in tempo a vederlo. Era un sogno l'Ebu Silver, ma non smetti più di sognare. Vuol dire che è anche un buon momento per il movimento. Assolutamente sì, è un ottimo momento per il movimento pugilistico, almeno a livello pro. Quindi siamo arrivati all'europeo, vediamo come va europeo, vogliamo sognare sempre di più, insomma, spero che non ti fermi qua, che ci apra tantissime altre porte.